Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Rituali, piccoli e grandi talismani, portafortuna, quanto ci aiutano a vivere meglio. Ne parliamo oggi, ve la data lo impone, venerdì 17, ci occupiamo proprio di scaramanzia. E lo sport è sicuramente uno dei campi in cui maggiormente abbondano i rituali, forse perché il risultato è immediato e l'esito del rito è subito verificabile. Insomma, forse, dico forse, e lo dico, io sono nata proprio di venerdì 17, ma insieme a me anche Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica, forse un pizzico di scaramanzia non guasta, lo dice anche una ricerca scientifica. Uno studio condotto dall'Università di Colonia in Germania e pubblicato sulla rivista Psychological Science ha evidenziato come la superstizione possa migliorare la performance sportiva. Un gruppo di volontari è stato infatti sottoposto a 4 prove, i cui risultati sono stati poi analizzati. Da questa comparazione è emerso che chi prima di iniziare aveva fatto qualche gesto scaramantico o aveva con sé un suo portafortuna, alla fine ha avuto una prestazione migliore. Quindi avere un portafortuna aiuta ad avere maggiore sicurezza. Intanto voi andate sicuri, provate a scriverci 800 24 00 24, i messaggi come sempre al 349 238 6666. Vogliamo commentare questa ricerca con il professor Montali, ricercatore di psicologia sociale all'Università Bicocca e membro fondatore del CICAP, un'associazione che si occupa di studiare i fenomeni paranormali e anche quindi la superstizione. Professor Montali, buongiorno a lei. Buongiorno a lei, suo ascoltatore. Iniziamo a dire perché il venerdì 17 per alcuni è visto proprio e vissuto come una sorta di catastrofe, un giorno molto a rischio. Io mi sento in qualche modo vaccinata perché, essendo nata di venerdì 17, secondo me a me porta particolarmente bene. Comunque. Potremmo dire che lei è la prova vivente del fatto che il venerdì 17 porto bene, quindi dovrebbe essere sufficiente questo, come dire, per sconfiggere ogni altra superstizione. Però si sommano, come dire, nelle credenze che variano poi di popolo in popolo e anche un po' di regione in regione all'interno del nostro paese, si sommano diverse tradizioni. Allora, la tradizione sul venerdì è una tradizione che ha probabilmente un'origine religiosa, ma che anche nel nostro paese, come dire, riguarda il martedì e il venerdì. Di Marte e di Venere non ci si sposa e non si parte, quindi come dire, si accomunano certe giornate che vengono identificate come problematiche. Sul 17 una possibile spiegazione è il fatto che la scrittura in latino di 17 porterebbe alla parola vixi, cioè ho vissuto e quindi sono morto, e allora se sono morto evidentemente il massimo della disgrazia si è abbattuta su di me. Sono possibili tentativi che facciamo di rintracciare l'origine di queste superstizioni, che hanno ovviamente una loro nascita che sta nella storia della nostra cultura e quindi anche molto antica, ma che sono anche molto diverse. Cioè, se noi guardiamo all'insieme dei rituali che vengono fatti nel mondo, ci rendiamo conto della straordinaria varietà. Da noi si tocca ferro, in altri paesi si tocca il legno, da noi è il 17, in altri posti è il 13, da noi c'è il cornetto, in altri posti c'è il ferro di cavallo. Allora, un po' questo ci segnala il fatto che queste superstizioni hanno un valore limitato, diciamo così, valgono nella cultura nella quale sono costruite. E un po' la ricerca che lei raccontavate prima sta un po' in questo stesso senso, e cioè ci dice che se tu credi ad una certa cosa, indipendentemente che sia un cornetto, un maglione che ti ha portato fortuna, un altro, un ferro di cavallo, qualsiasi altra cosa, se tu ci credi cioè che ti porterà fortuna, questo ti mette in una disposizione d'animo positiva, senti di aver accresciuta, dicono gli psicologi, la tua autoefficacia, cioè la tua capacità di fare una certa cosa. Noi sappiamo che laddove le persone hanno un'autoefficacia alta riescono meglio in un certo compito, ma non è tanto l'amuleto quello che ci porta a riuscire quanto la nostra profonda fiducia nei confronti dell'amuleto. E in linea con noi abbiamo anche il dottor Giuseppe Vercelli, psicologo dello sport all'Università di Torino. Buongiorno. Buongiorno a voi. Lei tra l'altro proprio ci sta parlando dalla Val d'Isère, dove si sta disputando il Super G femminile, quindi a stretto contatto con le atlete. Serpeggia il timore nel fare una gara proprio in questo giorno? Che cosa le raccontavano prima di gareggiare le atlete? Beh, intanto qui avrebbe dovuto disputarsi il Super G, ma proprio perché venerdì 17 vede, ha colpito e quindi abbiamo dovuto, è stata annullata la gara da parte della direzione per maltempo, quindi questo potrebbe essere un primo segnale. È già la seconda volta che si annulla questa competizione, quindi gli atlete chiaramente, come prima di ogni competizione, fanno un po' il punto, sono chiaramente tese o attivate e vengono fatti questi rituali abbastanza comuni. Io distinguerei però due tipi sì, di superstizione. Una sicuramente usata per sdrammatizzare il momento, quindi per scherzare, di solito ci sono scherzi fatti in modo ricorsivo con persone dello staff e della squadra. E poi ogni atleta invece ha, come diceva giustamente il professor Montali, mi trova perfettamente d'accordo, dei piccoli gesti più o meno evidenti o più o meno segreti che rinforzano l'identità di atleta, quindi in realtà sono segnali, sono gesti che l'atleta compie per aumentare la propria concentrazione, quindi per scendere in gara con la massima connessione tra corpo e mente, quindi per aumentare la sua sincronia, portando in gara i punti di forza, regolando l'energia, usandone quindi il giusto rispetto all'azione che viene svolta, cercando il ritmo e soprattutto utilizzando le emozioni presenti al servizio della competizione in atto. Quali sono gli amuleti che vengono utilizzati di più, i gesti scaramantici tra gli sportivi, secondo lei, dottor Vercelli? Ma ci sono... Va forte il cornetto, che ne so, quali, sì, facciamo una sorta di hit parade così. Sì, diciamo che tra le ragazze, tra le donne, vanno molto di moda indumenti, quindi dalla classica sciarpina al casco fatto in un certo modo, mentre tra gli uomini, i ragazzi, ultimamente noto di più un certo tipo di piercing, orecchini, quindi oggetti che devono essere parte del corpo. E normalmente questi oggetti, questi orpelli vengono scelti con dei criteri precisi che chiaramente gli atleti tendono un po' a tenere segreto. Lei è un po' superstizioso o no? Ma io potrei diventarlo da oggi, nel senso che la connessione con Radio 24 anche per tutta la squadra potrebbe essere ben augurante, magari se domani la gara andrà bene, quindi penso che potremmo... Guardi, lei lo sa che Radio 24 e, devo dire, Essere Benessere portano molto bene, quindi in bocca al lupo al dottor Giuseppe Vercelli, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Professor Montali, quindi ciascuno trova nell'amuleto quella forza, quel modo, no, per andare avanti, per magari spegnere quell'ansia, la paura, no, della prestazione. Fino a un certo punto la superstizione può aiutare, poi ci ingabbia. Quali sono i segnali che ci devono far capire che stiamo esagerando? I segnali sono quelli legati al fatto che ci pensiamo troppo, cioè che confidiamo troppo nell'amuleto, per cui, che ne so, usciamo di casa, ci accorgiamo che non ce l'abbiamo e cominciamo a preoccuparci, allora magari decidiamo di ritornare indietro per prenderlo perché senza di quello non so come ce la farò, oppure, come dire, il fatto che diventi come una sorta di pensiero un po' ossessivo, no? Cioè che senza di quello ci sentiamo perduti. Allora lì evidentemente si è varcato un confine, no? E spesso la differenza fra normalità e patologia, diciamo, anche se la patologia qui va intesa in senso ovviamente leggero, è proprio una questione di quantità, no? Quanto è il tempo che noi dedichiamo, quante risorse dedichiamo per cercare l'amuleto che ci va bene, quanto ci teniamo al fatto di averlo vicino. Allora questo ci dà un segnale del fatto che quell'amuleto è diventato un po' troppo importante forse, e cioè che ha superato quella sua dimensione che sta a metà fra il gioco in qualche modo e l'idea che in questo modo io controllo il mondo, perché dietro, come dire, ogni superstizione c'è un bisogno di controllo rispetto a ciò che è per definizione imponderabile, no? Cioè, per definizione non completamente controllabile, come è per esempio il futuro o la prestazione di carattere atletico. Allora, quando supero quel confine lì, evidentemente c'è qualche cosa che non va. Non è un fenomeno così rilevante, così diffuso, però allo stesso tempo tempo, ogni tanto essere un po' anche autocritici e autoironici rispetto alle proprie superstizioni, piccole superstizioni del quotidiano, aiuta a tenere lontano in qualche modo questo pericolo. E da questo punto di vista, come dire, anche il parlare, no, di queste giornate, il venerdì 17, piuttosto che tutti i cornetti che si vendono in Italia, vengo da una trasmissione televisiva in cui c'era un imprenditore che ha fatto fortuna vendendo cornetti anche enormi, di più di un chilo, quindi evidentemente, come dire, ci sono persone che comprano questi oggetti anche pensando di usarli forse come arma, perché un cornetto di un chilo diventa davvero un oggetto contundente, diciamo così. Allora, si tratta di superare il momento della così cieca adesione e di essere anche autoironici rispetto a credenze che sono molto diffuse. Voglio salutare il dottor Gianni Nanni, specialista in medicina dello sport. Buongiorno anche a lei, dottore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottore, lei che ha seguito il Bologna avrà sicuramente tante storie da raccontarci, ma lei è superstizioso? I calciatori, cornetti, talismani, riti strani, ne sono fanno? Sono molto superstiziosi, sì. La maggior parte sono superstiziosi, ma più dei calciatori gli allenatori. Io ho vinto un campionato di Serie B con un bravissimo allenatore che per tutto il campionato però ha indossato un elegantissimo cappotto di cashmere blu per tutti i campionati in panchina. E il problema è nato quando una delle ultime partite era in programma a Palermo, la penultima domenica di maggio, e c'erano 30 gradi sul campo. Lui imperterrito ha continuato a indossare il suo cappotto fino alla fine della partita. E com'è andata? Abbiamo vinto 2-1 ed è stata una partita fondamentale per vincere il campionato, ma ha rischiato il colpo di calore. Io ero sinceramente preoccupato per la sua salute. Allora, a proposito, dottor Nanni, lei stia lì, ci assista. Proprio come succede nelle gare sportive, l'assistenza medica non manca mai. E oggi, infatti, i nostri ascoltatori potranno approfittare di lei per chiedere consigli e suggerimenti per restare in forma anche senza amuleti. Il venerdì noi ci dedichiamo agli sportivi, oggi, proprio oggi, quindi, giornata che per alcuni è quasi una catastrofe, una giornata difficile. Consigli per evitare piccoli infortuni durante l'attività sportiva, ma anche per rimediare a quelli che per distrazione, per leggerezza o chissà, magari per la mancanza del cornetto, abbiamo subito. 800 24 00 24. Intanto io vi invito a partecipare all'iniziativa Il Consiglio di Lettura di oggi, che leghiamo naturalmente al tema grazie alla collaborazione con IBS. Scriveteci il vostro rito propiziatorio, perché funziona, perché ci credete, e il messaggio più divertente, curioso, che commenteremo naturalmente insieme al professor Montali, riceverà a casa, grazie alla collaborazione con IBS, Supersenso, perché crediamo nell'incredibile. Io però intanto voglio approfittare per suggerirvi un libro se siete superstiziosi: Superstizione, istruzioni per l'uso, in che cosa si crede e perché, di Fuso Silvano. Allora, intanto voglio leggervi un messaggio che mi arriva da Facebook. Maria ci scrive: gli unici talismani che ho sono due conchiglie di argento che tengo sotto al materasso perché ho letto in un libro di Feng Shui che proteggono nei viaggi, e la foto di due anatre mandarine sul comodino che dovrebbero proteggere la coppia dalla separazione. Della serie non ci credo, ma d'altra parte tentare col sorriso non nuoce. Professor Montali, abbiamo le anatre mandarine e le conchiglie d'argento. Le dicono qualcosa? Mi dicono della straordinaria varietà di oggetti, come dire, che possono venire investiti di questo tipo di poteri. Mi fanno un po' pensare che se sono così tanti, evidentemente ciascuno di questi non funziona poi così tanto bene, perché se appunto si moltiplicano dai corni ai cornetti, ai ferri, dal legno ai numeri, come dire, le occasioni dentro le quali cerchiamo fortuna, evidentemente ciascuna di queste poi non è che funzioni così tanto bene. Abbiamo ascoltato l'haka, l'antica danza dei guerrieri maori che i rugbisti neozelandesi fanno prima di ogni partita. È un modo forse di unire forza muscolare e concentrazione. Ma io ne voglio parlare con Martin Castrogiovanni. Benvenuto, ciao! Ciao, come andate? Della nazionale di rugby. Sei superstizioso? Sì, molto. Molto. E che cosa fai? Quali sono i tuoi riti? Beh, comincio a spiegarli adesso, penso che finiamo domani mattina, perché ogni giorno che passa ce n'è uno nuovo. Ma quello di oggi? Perché oggi è una giornata abbastanza... No, ma io ce l'ho solo prima delle partite, durante le giornate. Io non è che ho il numero, diciamo, il numero, il 17, il 13, quelle cose lì, no. Io cerco solo di fare sempre le stesse cose prima delle partite per giocare bene. Se ho giocato bene la partita scorsa, ho fatto qualcosa, cerco di farlo bene, però ogni volta si aggiungono di più e comincia sempre prima tutto, perché sono un po' superstizioso, ma è più che altro non è i numeri o le giornate, è più per le partite, per cercare di giocare bene. Mi aiuta molto a tenere la concentrazione, a ascoltare sempre la stessa musica, prima andare in campo la stessa canzone, entrare sempre con il piede sinistro in campo, camminando, ce n'è veramente tante, però è un modo di aiutarmi. Senti, però qual è quella a cui tu non rinunci mai, proprio quello che rimane come denominatore comune di tutte le tue partite? Sicuramente è quello di togliermi le medagliette che ho al collo, che sono regalate dalla mia famiglia, e me le tolgo sempre prima di andare in campo e diciamo li parlo un pochettino, perché mi sento come che parlo con la mia famiglia, e dopo li appendo sopra la maglietta prima di andare al riscaldamento, e sicuramente di quello non posso fare a meno. Senti, quindi oggi non devi nessuna partita, oggi per te il venerdì 17 non, no? Una giornata come le altre? No, io diciamo che il numero 17 sì, ogni tanto, sai, quando uno gioca o qualcosa a carico, sì, ci può essere, però durante le giornate io quelle cose lì molto no, non ci credo. Infatti ti dicevo dell'amuleto, io se mi è capitato di dimenticarmelo dopo le partite, e dopo ho fatto muovere terra, cielo, tutto per trovarli, perché tante volte abbiamo giocato fuori casa e ho dovuto chiamare a tutto il mondo per ritrovarle, ma l'ho sempre ritrovato, perché penso che se le perdo non giocherò più il rugby. No, per carità, non perderle. Un abbraccio a Martin Castrogiovanni, grazie. E noi grazie. Andiamo nella provincia di Pavia, c'è Claudio che ci aspetta. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Ci racconti? Io ho un episodio che forse in controtendenza, però che comunque dà il segno comunque. Io ho giocato, adesso ho 50 anni, ho giocato tantissimi anni, una ventina a calcio. Facevo il portiere e fino a un certo punto, prima di andare in campo, avevo sempre un fazzolettino che mi aveva regalato una mia vecchia fama, che io infilavo nel guanto da portiere. Sì. Una domenica non lo trovo, l'ho perso e insomma, mister, non gioco, non mi sento bene. No, devi giocare, ho giocato la miglior partita della mia carriera. Veramente? Da allora, perché probabilmente è iniziata bene, una grande parata subito, mi sono esaltato, però insomma da allora oggetti scaramantici. Non ne porto più, questo era solo un episodio per dire che fino a quel momento sembrava, come dire, il sangue perché mi facesse andare avanti. Perso quello, grande prestazione, vabbè, vuol dire che non ho bisogno di oggetti. Grazie Claudio. 800 24 00 24. Dottor Nanni, ci sono degli infortuni, no, che avvengono durante gli allenamenti, si dà magari colpa al venerdì 17 eccetera, tante volte invece la colpa, anzi nella maggior parte dei casi, deriva da un riscaldamento non adeguato, parlo di sport, piuttosto che da una distrazione. Lei che ci dice? Sì, a volte capita anche per campi e attrezzature non corrette, quindi molte volte si dà la colpa al venerdì 17, ma ci sarebbero ben altre cose da cambiare. Il fatto di non fare un buon riscaldamento e una buona preparazione prima di iniziare esercizi ad una certa intensità è ovviamente uno dei fattori più pericolosi per avere problemi poi durante l'allenamento. È molto più potente, no, questo del cornetto. Ma insomma, io continuo ad invitare i miei ascoltatori a chiamarci 800 24 00 24 se anche volete rimanere in forma, volete evitare di avere dei piccoli infortuni proprio oggi, venerdì 17, chiamateci. Abbiamo il dottor Nanni che ci assisterà come medico dello sport. Il dottor Confalonieri vi saluta, ma oggi non può essere con noi. e naturalmente il professor Montali, che leggerà anche un po' i vostri amuleti, dando loro un segno, ci racconterà un po' la storia. Intanto continuate a scriverci 349-238-6666. Noi andiamo ai mercati, poi il meteo, poi di nuovo insieme. Essere e benessere. E siamo tornati insieme. Mi faccio veramente una collezione, professor Montali. I miei ascoltatori mi stanno scrivendo, beh, il classico cornetto, l'elefantino con la proboscide verso l'alto, però c'è chi dice verso la porta, no, al contrario. Poi ci sono ascoltatrici che mi raccontano i colori che portano più fortuna, naturalmente tutti tranne il viola. Ma dal centralino mi avvertono che in linea con noi abbiamo una super campionessa, abbiamo Paola Magoni che ci ha chiamato. Lei ha vinto, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Lei è una super atleta. Che bello, sono contenta che ci ascolti. Sì, vi ascolto tutte le mattine e vi devo fare i complimenti perché è una bellissima trasmissione. Grazie, davvero. Grazie. Paola, lei ha vinto le Olimpiadi di slalom, vero? Esatto, le ho vinte a Sarajevo nel 1984, tanti anni fa, quindi ormai sono una vecchietta. No, non dico. E di venerdì 17, quindi per me è una giornata di fortuna. Vede, poi partecipare a Essere Benessere. Io sono nata di venerdì 17 di giugno, però insomma è uguale. E poi questa è la prova di Paola che ci racconta che... Ma lei aveva paura a gareggiare in quel giorno e poi si è ricreduta o è sempre stata assolutamente indenne da questi timori del... Diciamo che non sono mai stata una persona molto superstiziosa, quindi non ci ho pensato più di tanto e quindi in ogni caso in quei momenti diciamo che l'ultima cosa che ti viene in mente è pensare alle date, ai giorni. Ecco, ci pensi dopo, diciamo. A cosa fatta. Oggi Paola, noi vorremmo approfittare, parlando di superstizioni, insieme al dottor Nanni vogliamo dire ai superstiziosi e non parliamo agli sportivi, alle persone che lo praticano a livello amatoriale. Ecco, il migliore portafortuna è cercare di allenare in modo intelligente, riscaldarsi, per cui il dottor Nanni darà dei consigli su questo fronte per evitare strappi, soprattutto per quelli che non fanno il riscaldamento o tirano troppo. Lei ha un consiglio da darci da sportiva? Ma io mi alleno tutti i giorni, quindi o vado a correre o vado in bicicletta, o vado a sciare, sono rimasta sempre molto attiva a livello fisico. In effetti diciamo che lo sportivo amatoriale tende a non fare riscaldamento e a non fare allungamento, certo, che sono due cose molto importanti invece, quindi consiglio sicuramente prima di cominciare a lavorare seriamente di fare un leggero riscaldamento, sia la corsa, corricchiare quei 4-5 minuti lentamente oppure camminare veloce e poi, finito l'allenamento, ricordarsi di fare allungamento, che non lo fa mai nessuno. Ecco, iniziate a farlo proprio venerdì 17. Grazie a Paola Magoni per essere stata con noi, grazie per averci chiamato. Prego e tanti complimenti ancora. Grazie, un abbraccio. Arrivederci. Ah, grazie. Quelli chi sono? Yeah. Ma che razza di banda siete? Se stato uno sbaglio, siamo innocenti. Non che posso mettere a sfondere solo il nome da sfruttare. Ma io faccio sport. Ah. Bocce, accostature. Come mio nonno. Guarda che è un omaggio. Sì, ho capito, ma sto parlando. Per la signora. Sì, per la signora. Ma stai... Ma porca... Hai quella... Puttana! Avanti! Che cazzo ci fai nella mia macchina? Sono entrato per riflettere e sono rimasto chiuso dentro! Ma chi è sto Africa qua? Ma veramente sono nato normanno in terra sicura. Allora! È morte questo qua, lo tenga fermo. Ma ce l'hai? Aldo, vieni a darmi una mano. Solo il nome. Ma io non voglio voglio lavorare tanto per lavorare. Io voglio fare un lavoro divertente. Brutta merda! Esce proprio oggi, venerdì 17, la banda dei Babbi Natale. In linea con noi abbiamo Giacomo. Giacomo! Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ma io sono felice tutte le volte che ti chiamiamo e che tu riesci a venire. Guarda, questo è già il regalo di Natale, oltre alla banda dei Babbi Natale. Grazie. Senti Giacomo, beh, è stata una scelta coraggiosa il venerdì 17? Ma guarda, devo dire che tutti e tre, nessuno di noi è scaramantico. Per cui non è la prima volta che usciamo con delle opere importanti di venerdì 17 anche a teatro tanti anni fa, e non lo siamo mai stati, nemmeno l'uso del colore viola, no, niente. Noi siamo molto molto critici verso noi stessi. Noi siamo convinti che una cosa funziona se hai lavorato bene. E se hai fatto un brutto film la gente non ti viene a vedere, indipendentemente dalle mutande che indossi o dalla sciarpa che porti con te. E come sempre sarà un successo. Poi esce il venerdì 17, che per me porta buono. Ci facciamo rassicurare dal professor Montali. Giacomo, lui è un super esperto. Proviamo, sentiamo l'espertone. Sentiamo l'espertone, professor Montali. È molto bello che siano venuti fuori già due esempi in queste, no, sue testimonianze di persone che dicono non usavo l'amuleto e ho vinto, ho capito che l'amuleto era inutile, oppure non ci ho mai creduto e in fondo, come dire, i successi che hanno avuto dimostrano che appunto si può tranquillamente vivere senza essere superstiziosi e vivere benissimo senza essere superstiziosi, diciamo. Ma noi per esempio come CICAP abbiamo voluto provare a sfidare questa credenza e superstizione, nel senso che negli ultimi due anni abbiamo organizzato in diverse città d'Italia delle giornate antisuperstizione, cioè di fatto costruivamo e proponevamo alle persone di fare un percorso nel quale avrebbero in teoria fatto tutto ciò che, se si è superstiziosi, non bisognerebbe fare: il gatto nero che attraversa la strada, passare sotto la scala, rompere un vetro, uno specchio, versare il sale. E, come dire, le persone potevano affrontare questo percorso per arrivare alla fine e dirsi: beh, ma in effetti non mi è successo proprio niente, quindi forse tutte queste superstizioni non hanno nessun senso. E alla fine diamo anche un bel diploma: sei sopravvissuto alla giornata antisuperstizione e al nostro percorso, diciamo, che ti dimostra che si tratta soltanto di, come dire, antiche tradizioni di un quindi tempo Giacomo, quale... Giacomo riceverebbe già questo diploma, un ma super premio, lo inviterei super... al prossimo convegno del CICA per raccontarti, ecco, ma lui sarà premiato anche dal botteghino, perché i vostri film sono sempre dei grandi successi, Giacomo. Grazie, grazie, comunque grazie per il diploma, sarebbe l'unico posseggo nella mia vita. Grazie. Dai, te lo facciamo avere. Allora telepaticamente glielo sto mandando. Molte grazie. Senti Giacomo, ci fai, mi fai una cosa carina, che così ci inviti al cinema, che mi piace. Certo. Dai, fammi un invito. Allora, vi dico una cosa. Superstiziosi e non superstiziosi, venite al cinema, perché questa volta, credetemi, abbiamo fatto una cosa veramente carina, molto molto divertente ma anche molto dolce, con delle cose anche un po' anticate, ma per questo molto molto importanti, che vale la pena di vedere. Grazie Giacomo, un bacio. Grazie Nicoletta, un bacio che vale per tre, grazie. Ciao, ciao. Dottor Nanni, lo sa che Aldo, Giovanni e Giacomo nel film giocano a bocce? Sì. Lì i rischi non ce ne sono, no? No, a parte probabilmente un po' di mal di schiena a volte. Ma adesso d'inverno si gioca a bocce, no? Sì, si gioca al coperto. Si gioca al coperto. Io andrei da Gianpietro, che ci chiama da Vicenza. Buongiorno Gianpietro. Salve. Lei ha bisogno del dottor Nanni o ha bisogno del professor Montali? Si vuole tenere in forma nonostante il venerdì 17? Vuole cercare qualche modo per allontanare? Mai stato superstizioso, primo. Sempre stato sportivo, la vita mi ha aiutato adesso a fare un impianto sportivo molto bello, dove cerchiamo di puntare su tutte queste cose che avete detto, pavimenti a posto, riscaldamento, in modo da dare alla gente la possibilità di non avere problematiche. Una cosa che volevamo proporre era appunto una saletta dove potersi riscaldare. Sì. Tengo presente che si fa quasi esclusivamente calcetto. Sì. Arriva sempre la gente all'ultimo minuto, per non sprecare l'ora, va dentro e come sempre succede, si rompe. Anche ieri sera un ragazzo... Che non era venerdì 17... Era già giovedì 16, quindi anche quello che vogliamo dire noi oggi ai nostri ascoltatori, a quelli che fanno sport, tante volte noi prendiamo il pretesto, è stata una giornata sfortunata, ma tante volte sono proprio le nostre comportamenti incauti a essere l'origine dei nostri problemi. Essere e benessere. Siamo tornati insieme, dottor Nanni. Allora, diamo delle indicazioni ai nostri ascoltatori che fanno sport per scaramantiche, nel senso che diamo delle regole per evitare infrutuni, strappi, lesioni, eccetera. Alcuni funzionano come dei cornetti, insomma. Sì, alcuni consigli sono già stati dati molto bene dai due ospiti che abbiamo avuto precedentemente. La campionessa Magoni ovviamente ha dato dei consigli molto importanti: riscaldarsi bene e fare un po' di esercizi di allungamento muscolare prima di fare l'attività, prima di arrivare a fare esercizi intensi e importanti. L'abitudine purtroppo nostra di sportivi amatoriali non è quella che invece porta a fare questo, e infatti l'intervento dell'ospite, dell'ultimo ospite che ha parlato, il proprietario di un centro ricreativo dove ha fatto campi di calcetto, lo testimonia molto bene. Sì. Noi arriviamo a fare attività all'ultimo momento, vogliamo fare il più possibile perché abbiamo un'ora a disposizione il campo e quindi cerchiamo di sfruttarla per intero, ma non facciamo riscaldamento, non facciamo esercizi di allungamento, non ci prepariamo a fare la nostra partitella, e questa è la peggiore abitudine che possiamo avere. E lì il cornetto non può far nulla. Il cornetto non può fare assolutamente niente. Infatti molto spesso proprio per questa abitudine i campi di calcetto, come diceva l'ospite di prima, danno un contributo importante alla traumatologia. Un ultimo consiglio è l'alimentazione prima di fare attività sportiva, perché è molto importante. Se noi mangiamo troppo tardi o mangiamo cibi molto elaborati che richiedono una digestione molto lunga, noi sequestriamo a livello del nostro stomaco, a livello dei nostri apparati digestivi, sequestriamo sangue che invece deve essere a disposizione dei muscoli che fanno attività. Quindi mangiare correttamente prima dell'attività è un amuleto importante per evitare problemi. Omar ci chiama da Cagliari, buongiorno Omar. Sì, buongiorno a lei, adesso io ospite. Lei è un po' superstizioso o no? Che cosa si fa in Sardegna contro la superstizione? Ma diciamo che a questo periodo il Cagliari sta andando abbastanza bene, per cui lasciamo le cose. Ah, perché lei si concentra solo sulla sua squadra del cuore? Solo in quel caso, sì. Ah, ho capito. Per quello che riguarda la mia attività fisica cerco di darla sul campo, e non sono superstizioso, non usiamo tecniche particolari. Invece la mia domanda per il professore era per quanto riguarda appunto il riscaldamento, mi vorrei un po' ricollegare. Si sta allontanando, però secondo me va a prendere qualche amuleto. Omar, non l'abbiamo più sentita, quindi non riesco, o lo recuperiamo, ma io approfitto per fare un salto dal professor Montali. Allora, consigli antisuperstizione per oggi, quindi proviamo a fare una sorta di giornata antisuperstizione. Voi l'avete fatta il 17 settembre, che consigli possiamo dare, professore? Ma secondo me il consiglio che possiamo dare, come dire, è quando ci viene in mente di usare l'amuleto piuttosto che pensare al portafortuna prima di fare una certa cosa, fermarsi un minuto e chiedersi: ma ha senso questa cosa? Cioè provare semplicemente, come dire, a prendersi un po' di tempo per riflettere su dei gesti che sono automatici, sono delle abitudini, e chiedersi: e se provassi a fare in un modo diverso? provarsi a dare un'alternativa. Però, ecco, però lì, sa, ad esempio, io anche alcuni ascoltatori me l'hanno scritto, lo rivedo mia figlia quando va agli esami, dato che il primo le è andato bene, poi anche gli altri a seguire, si veste sempre allo stesso modo. Sfidare la sorte sembra, deve essere molto coraggioso. Insomma. Certo, ma difatti io, come dire, non mi... secondo me il tema non deve essere quello di condannare le persone, piuttosto che di costringerle a cambiare o altro. Semplicemente se uno ha, queste cose nascono se uno ha un desiderio, no? Cioè, se uno a un certo punto ha voglia di interrogarsi rispetto alle abitudini e in questo senso vuole provare a sfidare le abitudini. È chiaro che è difficilmente proponibile per quello che sta andando a fare l'esame o che ha la partita importante se è abituato così, ma forse ci sono altri momenti nel corso della giornata o altre occasioni nelle quali, come dire, la cosa è meno rilevante. E allora io consiglio sempre, in queste piccole occasioni, di provare a fare in maniera diversa e magari ci si accorge che funziona lo stesso e che quindi si impara a credere un po' più in se stessi piuttosto che nell'amuleto. Perché in realtà rinunciare alla superstizione fondamentalmente significa capire che l'esito di una certa cosa dipende in larga misura da noi, dall'impegno che ci mettiamo, da quanto ci siamo preparati, da quanto abbiamo ascoltato i suggerimenti degli esperti, come quelli che lei ha fatto sentire oggi, e quindi abbiamo imparato ad affrontare meglio una situazione, e a quel punto l'amuleto davvero lo possiamo lasciare a casa o dimenticarcelo. Dottor Nanni, lasciamoci con un consiglio per i nostri sportivi, superstiziosi e non. E vorrei che lei rispondesse, quindi facciamo un servizio subito. Quanto devono durare i tempi di allungamento? Quanto tempo prima, quanto tempo dopo? Ma, prima dell'attività fisica è bene fare un blando riscaldamento, 10 minuti con esercizi a bassa intensità e un 5-10 minuti di esercizi di allungamento, compreso ovviamente i periodi di pausa. Questo è un prepararsi bene all'impegno e vuol dire abbattere molto la possibilità di avere infortuni, soprattutto di tipo muscolare, ma non solo. E un ultimo consiglio che volevo dare, che è un importantissimo amuleto contro i problemi, anche problemi gravi che avvengono sui campi da gioco, è farsi controllare prima di iniziare un'attività sportiva, cioè prima di pensare di iniziare un campionato, di iniziare un'attività sì, fisica. Quello porta assolutamente buono, meglio ancora del cornetto. Dottor Nanni, professor Montali, grazie per essere stati con noi in questo giorno speciale. Grazie a voi. E prima di salutarvi voglio segnalare un convegno internazionale che si apre oggi a Milano e che vede riuniti i massimi esperti per parlare di un vaso, del vaso direi, quello più importante del nostro organismo, l'aorta. In linea con noi abbiamo il professor Roberto Chiesa, che ha organizzato questo importante convegno ed è direttore dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'Istituto Scientifico Universitario San Raffaele. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Il nostro è una sorta di lancio, perché io voglio che i nostri ascoltatori siano informati che c'è questo convegno, ma soprattutto che di questo convegno e delle novità che emergeranno da questo convegno noi parleremo nel corso della prossima settimana. Quindi ci lanciamo, professor Chiesa. Molto bene. Questo è un grande convegno, raccoglie più di 1000 persone da tutto il mondo, vengono dagli Stati Uniti, dal Giappone, dalla Cina a parlare dell'aorta. L'aorta è, come sappiamo, il vaso più importante dell'organismo e purtroppo se si danneggia o se si rompe provoca dei guai incredibili. Oggi possiamo curarlo in molti modi, sappiamo, con una chirurgia diretta o con una chirurgia endovascolare, quindi sarà molto interessante confrontare le nostre opinioni e vedere che cosa uscirà di nuovo. E soprattutto daremo anche consigli per tenere da conto questo vaso, vero professore? Prevenire è sempre meglio che curare, ma se poi ci sono degli strumenti sempre più sofisticati e sicuri che ci permettono di risolvere il problema là dove si presenta, è ancora meglio. Professore, buon convegno, grazie per essere stato con noi, l'aspetto giovedì prossimo. Grazie, sempre molto gentile. Grazie, grazie al professor Chiesa, grazie a voi che ci avete seguito, appuntamento a domani con Questa casa non è un albergo, un saluto da Nicoletta Carbone. Radio 24. La passione si sente.